diciamo, questo organo tende, il retto tende a fuoriuscire, diciamo, quantomeno diciamo, a fuoriuscire nei casi più gravi dall'ano, quindi a procedere completamente dall'ano. In alcuni casi invece. Parla, scende la masturbazione. Con piacere. D'accordo, ascolta attentamente, non tergiverserò. Il tuo corpicino sta cambiando e questo è positivo, credimi. Adesso il problema è che quando ti stropicci il cetriolino ti ritrovi in mano del liquido bianco che ti si appiccica dappertutto, giusto? Giusto. Quindi devi imparare alcune cose. Tra l'inserimento del pene nella vagina e l'eiaculazione. Due anni fa, prima di soffrire di meteorismo, Sara era una ragazza normale. Quel giro di prostituzione emerge a Bari quando parla Patrizia D'Addario. Benvenuto